falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. E oggi torniamo a parlare di calcio, del calcio romantico che a noi piace, e per trovare storie di calcio romantico, come spesso accade, dobbiamo andare in Inghilterra e arrivare a un vero fuoriclasse, a uno che ha entusiasmato il pubblico inglese ma anche quello italiano, perché ce lo siamo goduti anche noi, perché ha giocato qualche anno nella Lazio. Stiamo parlando del mitico Paul Gascoigne, che ha avuto tutto il mondo ai suoi piedi e che per vari motivi non è stato bravissimo nel gestire il suo personaggio, il suo successo. This is Parker. Now can England produce number 5 right at the end? This is Gascoigne. Going all the way! Yes! Oh, that's terrific! Questo è l'audio del primo gol che Gascoigne segna con la maglia della nazionale inglese, cioè il sogno di ogni bambino, poter diventare un calciatore famoso e vestire la maglia della propria nazionale. I sogni sono ancora più belli quando nascono in piccole cittadine di provincia, tra campetti improvvisate, magari porte senza la rete. Qui siamo a Gateshead, che è nell'estremo nord dell'Inghilterra, quasi al confine con la Scozia. Paul Gascoigne nasce lì nel 67 da una famiglia operaia, gente semplice, onesta, che lavora sodo, che ha nei figli la propria ricchezza. Fa una vita tranquilla, che è classica di quel mondo, lavoro dal lunedì al venerdì, scuola per i ragazzini, e poi c'è il weekend dove arriva il pub e il calcio. La squadra locale, il Newcastle, ogni bambino della zona sogna un giorno di vestire quella maglia, la maglia di Alan Shearer. Ecco, anche Paul Gascoigne fa questo sogno. Giocavamo in mezzo alla strada e usavamo come porta il cancello di casa. A volte giocavo con una pallina da tennis, ci palleggiavo fino a che non ero sfinito. Una volta ho visto giocare in TV Johan Cruyff. Wow, ho pensato che avrei dovuto diventare bravo come lui. Qualsiasi bambino appassionato di calcio passa i pomeriggi a colpire una pallina contro il muro, però a 6-7 anni Gascoigne è già convinto che per lui il calcio sarà la sua vita. Purtroppo sarà anche la sua rovina. A 7 anni, per il mio compleanno, mi venne regalato il mio primo pallone di cuoio. Ricordo che ci giocavo in continuazione. Andavo a scuola e lo nascondevo nello zaino. Poi all'uscita giocavamo tutti insieme. Ricordo che una notte mi alzai di nascosto, scesi dalla finestra e mi misi a giocare in giardino, al buio, da solo. Mi sentivo libero e mi piaceva. Questa infanzia comune a tanti bambini di tutto il mondo viene turbata da un fatto tragico, perché quando ha 10 anni assiste impotente alla morte del suo miglior amico e il bambino viene investito da un'auto. Paul è lì per pochi centimetri, non viene travolto e l'amico muore tra le sue braccia. Questo evento lo segna profondamente e per mesi viene accompagnato da uno psicologo. Ci sono delle ripercussioni con i compagni di scuola, insomma diventa quello strano, quello un po' suonato, e lui trova la sua cura solo nel calcio. A 14 anni conquista con il Newcastle la Coppa d'Inghilterra per le squadre giovanili e a 17 passa in prima squadra, esordisce nel campionato inglese. Eppure Gascogne non ha il classico fisico da calciatore, perché è robusto, sembra sempre un po' sovrappeso. Jackie Charlton, l'eroe dei mondiali del 66 vinti dall'Inghilterra, nell'88 è il manager del Newcastle e gli parla chiaro, dice che è grasso, che farebbe meglio a dimagrire se vuole arrivare a essere il migliore giocatore d'Inghilterra. Eppure, malgrado questo fisico possente, lui gioca bene. Gazza, ormai viene chiamato così da tutti, sul campo lascia sempre senza parole, perché è un centrocampista atipico, perché è bravo nei dribbling, tiene il pallone incollato al piede, salta l'uomo, come si direbbe oggi, e poi è un centrocampista con il fiuto del gol, e infatti nel Newcastle si fa notare, il pubblico si innamora subito di lui. Giocare nella squadra della tua città è una sensazione bellissima. Stare fianco a fianco con i giocatori che fino a qualche anno prima osservavi dagli spalti e sentire la folla che urla il tuo nome è un'emozione indescrivibile. Fare gol e leggere negli occhi della gente la felicità per quel che hai fatto è fantastico. A suon di gol si sta facendo strada Paul Gascoigne, come tutti ormai lo chiamano Gaza, un vero eroe per le persone che siedono sulle scalinate dello stadio di Newcastle. La ragione per cui i tifosi amano così tanto Gaza è perché lo vedono come uno di loro. Scarpe da tennis, maglietta, un paio di jeans e una dieta fatta di Mars e birra scura. Maglietta e giacca a vento, certo il suo non è un comportamento da manuale, ma quando si segnano gol come solo lui sa fare, a chi importa? E così a St. James Park, lo stadio del Newcastle, lui diventa un idolo e se ne frega dell'etichetta, anche del fair play, e questo piace ancora di più al pubblico. Se c'è da prendere in giro un avversario lo fa, non si tira indietro. Io ci ho giocato contro e durante un calcio d'angolo la mia bella strizzatina di testicoli me la sono presa, me l'ha data ridendo, insomma, però era uno che amava divertirsi anche col calcio, e il pubblico lo ama perché rappresenta quella fetta di popolazione formata da operai, di gente semplice che lavora tutta la settimana con l'unico obiettivo di godersi una partita la domenica, scolarsi qualche pinta di birra e diventare un popolo compatto di cui Gascoigne è già diventato il re. Febbraio 1988, il Newcastle di Paul Gascoigne gioca contro il Wimbledon di John Fasciano. Elementi molto forti da una parte e dall'altra, soprattutto dal punto di vista fisico. E c'è un centrocampista del Wimbledon in particolare che si chiama Vinnie Jones, è un duro, detiene il record per l'ammonizione più veloce, 3 secondi dopo essere entrato dopo l'inizio della partita. E nella sua carriera ha una bella collezione di cartellini rossi. Bene, durante la partita Jones e Gascoigne vengono a contatto spesso perché giocano nella stessa area di campo. Alla fine il faccia a faccia è inevitabile. Iniziata la partita cominciò a insultarmi, a dirmi che ero grasso, che non ero capace e che non sarei riuscito neanche a toccare un pallone. Solo che a un certo punto fu lui a toccare le palle. Erano le mie e le strizzò per bene. E il momento viene immortalato da un fotografo in una fotografia famosissima in cui si vede Gaza esibirsi in una delle sue smorfie più celebri, ma questo è solo un episodio. Nel Newcastle lui ormai è un numero uno, però nel 1988 c'è una svolta perché Gaza passa al Tottenham, è lì dal meglio di sé, perché nella stagione 89-90 segna 19 reti, tantissime per un centrocampista. Gol fatti pagare partendo da dietro con dei dribbling e molti me li ricordo. Insomma, il suo spirito di squadra unito alla sua classe gli fanno staccare il biglietto per il mondiale d'Italia 90. Terry Venables, l'allenatore del Tottenham, mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: «Ehi Gaza, ho una cosa da dirti». E io ho pensato: Oh merda, sono nei guai. Cosa ho fatto? Aveva la faccia seria. Mi disse di sedermi e io cominciai a giustificarmi, ma non sapevo neanche per cosa. E lui mi disse: ho una notizia per te, sei stato scelto per la nazionale. A pensarci mi viene voglia di piangere. Mondiali del 90, l'Italia gioisce per le prodezze di Totò Schillaci, ma intanto c'è un'Inghilterra molto forte, l'Inghilterra di Bobby Robson, l'Inghilterra di Gascoigne, di Lineker, che arriva fino alla semifinale, passa attraverso una partita memorabile, quella contro il Camerun. L'Inghilterra passa su rigore solo ai supplementari dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, e Gazza è protagonista perché gioca molto bene ed è fondamentale per la sua squadra fino alla semifinale, quella con la Germania. La sera prima ero nervoso, non riuscivo a dormire e sono uscito di nascosto. C'erano degli americani nel campo da tennis dell'hotel e mi sono messo a giocare con loro. A un certo punto mi chiamano i compagni e mi dicono: corri, c'è Robson. Torno in camera, mi metto a letto e in quel momento entra Robson che mi urla e mi insulta. E io gli dico: ehi, che diavolo, stavo dormendo. E lui mi dice: e tu di solito dormi su un campo da tennis? Germania è il derby d'Europa, secondo me, perché c'è grandissima rivalità. I tedeschi non perdonano ancora agli inglesi quel 4-2 del 66 con il famoso gol fantasma. Nel 70 invece sono i tedeschi a vincere sugli inglesi, e poi arriva un periodo in cui i tedeschi vincono sempre. Lineker dirà: il calcio è uno sport che si gioca 11 contro 11 e poi alla fine vince la Germania. E purtroppo per Gazza e i suoi amici succede questo anche a Italia 90, perché l'Inghilterra perde con la Germania ai calci di rigore. L'immagine che rimane è quella di Gascoigne che piange disperato a fine partita, forse perché ha capito che per lui non ci sarà un'altra occasione così in un mondiale. E al ritorno accade una cosa spettacolare, perché i tifosi accolgono la loro nazionale come se avesse vinto il mondiale. Gascoigne è lì sopra il pullman scoperto della squadra, indossa un vestito da carnevale che lo fa sembrare una cicciona nuda, una donna nuda, e viene comunque acclamato come un eroe. Scoppia la Gazzamania. Senti Gazza, stai vivendo un momento magico, molti lo paragonano a un sogno, ma tu sai benissimo che tutta questa popolarità potrebbe trasformarsi in un incubo. Lo so, potrebbe essere così, ma sto facendo del mio meglio per far sì che non accada. I giornali sono sempre addosso, ma io vivo la mia vita giorno per giorno. Eh sì, la vita di Gascoigne diventa un continuo essere al centro dell'attenzione. Fotografi, feste, discoteche, interviste, trasmissioni, donne, pubblicità. E stiamo parlando di un ragazzo di 23 anni che viene catapultato in quel mondo del calcio che diventa star system e che può diventare un'esperienza molto difficile da sopportare, specie se hai un animo provinciale di un ragazzo semplice a cui piace stare con gli amici a bere al pub. E Gazza i pub li frequenta e come, e accanto alle uscite ufficiali cominciano a farsi strada anche le notizie legate alle sue memorabili sbronze. La stampa era insopportabile, scrivevano di tutto e spesso erano bugie. Cominciai a bere perché era l'unico modo per sfuggire da tutto questo. E Gazza sta entrando in un tunnel che cambierà tutta la sua vita. La carriera non è finita, anzi, forse è il momento più alto di tutti questo. Però d'ora in poi l'alcol sarà sempre il suo compagno di viaggio. Lies when they can see right through your flimsy disguise. We all- Raccontando la storia di Paul Gascoigne, uno dei più grandi calciatori inglesi, ma che potenzialmente avrebbe potuto dare ancora molto di più in termini tecnici, perché a un certo punto della sua vita è piombato sul suo destino l'alcol, e quindi tutto quello che lui già faceva, le linguacce, gli scherzi, in qualche modo diventano esasperati proprio da questa sua insana passione. Lo abbiamo visto piangere allo stadio di Torino quando l'Inghilterra ha perso ai rigori la semifinale contro la Germania, ha festeggiato sul pullman con i suoi compagni e adesso si prepara un'altra grande sfida, giocare con il suo Tottenham la finale di Coppa d'Inghilterra, e la Coppa d'Inghilterra in Gran Bretagna è importante almeno quanto lo scudetto. Lo fa in un clima difficile perché i giornalisti cominciano a parlare della sua cessione. Spurs and England footballer Paul Gascoigne is reported to be on the verge of joining the Italian club Lazio. Talks are taking place in Rome between representatives of the two clubs, and if the deal goes through, Gascoigne's expected to become the richest player in the world. In realtà le voci sono molto più che una supposizione, perché il Tottenham è in profonda crisi e venderà i gioielli di famiglia. Gascoigne viene ceduto alla Lazio per una cifra che superava i 15 miliardi di lire, quindi cifra record. Ma prima c'è da finire il campionato, anzi la stagione a Tottenham, c'è da giocare la finale di Coppa d'Inghilterra, e qua ci sono in serbo per lui una serie di colpi d'ala, positivi e negativi. Il primo capita nella semifinale contro l'Arsenal, i rivali di sempre. A un certo punto c'è un calcio di punizione, io sistemo la palla e penso alle varie cose da fare, poi Lineker si avvicina e mi dice provaci, e scatta in avanti per distrarre gli avversari. Io ho caricato il tiro. E la partita si apre con una magia di Gascoigne. Il Tottenham vince 3-1 e va a Wembley a giocarsi la finale contro il Nottingham Forest. Prima della partita la principessa Diana scende in campo e Gazza non si fa troppi problemi di etichetta, si avvicina e le dice posso darle un bacio. Lei è imbarazzata, con eleganza gli porge la mano, lui le bacia la mano, perché lui è fatto così e sta per realizzare il suo sogno di bambino, che è quello di giocare a Wembley la finale di Coppa d'Inghilterra. Però lui non ama i giornalisti, le cerimonie, lui ama sentire la folla che grida il suo nome e poi via giocare palla terra. La partita è molto nervosa, Gazza è già ammonito e a un certo punto entra su un giocatore avversario in scivolata con una foga tipicamente inglese, ma in questo caso esagerata. Probabilmente il fallo sarebbe da espulsione, però accade qualcosa di terribile, perché una delle rare volte in cui è lui a dare le botte invece che a prenderle, si spacca il ginocchio. Gazza subisce l'infortunio più grosso della sua carriera, sta fermo un anno intero. La Lazio lo compra da infortunato, e però sui campi italiani scenderà solo dopo un campionato intero. Il suo rammarico più grande però è quello di non aver avuto la soddisfazione di salire i gradini dello stadio di Wembley e festeggiare la vittoria della Coppa d'Inghilterra, perché il Tottenham vince ma la Coppa gliela portano negli spogliatoi i compagni mentre lui ha la gamba rotta. Ma si volta pagina, lo aspetta la Lazio, l'Italia, il calore dei tifosi, e forse un po' troppo per le sue abitudini. Non ho mai visto niente di simile, è stato pazzesco. Quando arrivai a Roma c'erano centinaia di persone ad aspettarmi, avevo 19 guardie del corpo che mi tiravano da una parte all'altra e sciarpe che piovevano da ogni angolo, è stato spaventoso. E poi c'è stata la presentazione all'Olimpico, dove ci fu appunto questa grande festa, e dove lui, con il suo carattere stravagante, ha cominciato già a far divertire tutti con i suoi atteggiamenti, e credo che a Paul credo mai nessuno potrà volergli male, perché, come dicevo prima, è stato di una generosità con tutti i compagni, e nello stesso tempo, quando era in condizioni fisiche ottime, ha dimostrato anche di essere il giocatore che era stato pagato. E questo era Beppe Signori, che gioca nella Lazio allenata da Zoff. 3 stagioni non eccezionali, 6 gol in sole 47 partite, però le notizie importanti erano proprio legate al personaggio Gascogno, anche a qualche comportamento inconsueto, tipo l'episodio famoso che viene ricordato proprio da Dino Zoff. Prima di una partita eravamo in ritiro, lui decide di andare via, vabbè vai via, poi vuol dire che non giochi domani, e lui se ne andò. Solo che ritornò l'indomani a mezzogiorno, mentre eravamo a tavola, eravamo in un albergo normale, quindi c'era anche altra gente, si presentò nudo dicendo: mister, mi hanno detto che mi voleva, non ho fatto in tempo a vestirmi. E poi c'è un ricordo che per i tifosi laziali è indelebile, perché nel primo derby in cui lui gioca, la Roma sta vincendo 1-0 a pochi minuti dalla fine, punizione di Signori, e Gascogne di testa pareggia segnando il suo primo gol in Serie A proprio in un derby, insomma, per cui chi vive a Roma può capire qual è l'effetto deflagrante di un gol del genere in un derby. Da quel momento Gazza rimane comunque nel cuore dei tifosi biancocelesti. Nel 1995 torna in Gran Bretagna, questa volta va nei Rangers di Glasgow nel campionato scozzese, dà il meglio di sé, intanto dal punto di vista così umano, perché per esempio in quegli anni lì stava esordendo un giovanissimo Gattuso, a cui Gascogne fece uno scherzo mitico perché gli faceva da interprete, l'allenatore parla, Gattuso dice cosa ha detto, e Gascogne gli dice ha detto che domani mattina l'allenamento è alle 8. Gattuso arriva alle 8 del mattino, invece l'allenamento era alle 2 del pomeriggio, quindi un giovanissimo Gennaro Gattuso con la nebbia e il freddo di Glasgow si trova da solo 6 ore a aspettare l'arrivo dei compagni. Ma al di là di queste cose che fanno sì che Gascogne venga ricordato con simpatia da tutti quelli che ci hanno giocato, e lui dà anche il meglio di sé in campo, perché vince 2 scudetti con il Glasgow Rangers battendo i soli rivali della Scozia, cioè il Celtic Glasgow, vince una Coppa di Scozia, partecipa agli europei del 96, poi arriva l'appuntamento con i mondiali del 98, ma qui accade qualche cosa, perché durante uno dei ritiri c'è una festa, dei giocatori si ubriacano, lui ovviamente è tra questi, e l'allenatore, che è Glenn Hoddle, non ci pensa due volte e decide di lasciarlo a casa, forse anche per motivi tattici. Fatto sta che Gazza se ne va dopo avere distrutto la sua camera d'albergo per la rabbia, e da quel momento inizia il suo vero declino, perché va al Middlesbrough, poi al Liverpool e poi in seconda divisione, poi va in Cina, negli Stati Uniti, e purtroppo vive quella parabola discendente di molti calciatori quando non si rassegnano a smettere, e poi i problemi fisici causati dall'alcolismo cominciano a prendere il sopravvento, e molte volte lui viene trovato completamente ubriaco, viene rinchiuso in una struttura per alcolisti, dimagrisce, invecchia, poi ringrassa, arriva a 48 anni senza dimostrarli fisicamente, ma senza nulla di quel faccione che mostrava la lingua avversari agli arbitri. Mi ricordo una volta che ammonì lui l'arbitro perché trovò il cartellino dell'arbitro per terra. Qualcosa forse sembra cambiare oggi. Un paio d'anni fa è tornato in Italia e i tifosi l'hanno accolto ancora una volta come un eroe. Questo momento è incredibile. Io provo a parlare italiano, meglio quando bevi. Anche prima, quando arrivo all'albergo, io penso al mio tempo qui alla Lazio, forse piange mia camera su. Mio tempo alla Lazio è incredibile, però quando ho visto lo stadio prima è incredibile, ti pensa, io gioco qui ogni settimana con Tascone, ho visto tifosi stasera, io penso piange dopo. Un grande campione, una persona molto simpatica, ripeto, io che l'ho conosciuto, ho conosciuto veramente, insomma, una di quelle persone con cui passeresti volentieri la notte anche a costo di berti qualche birra di troppo. Un grande calciatore che non ha saputo, come molti calciatori, molti arrivati dall'Inghilterra, non ha saputo gestire il suo successo, le sue pressioni, non tanto perché ha speso soldi in macchine sportive o cose del genere, i soldi lui li spendeva bevendo e spendeva anche tutto il suo fisico, che era la cosa più preziosa che aveva. Sono storie di vite straordinarie quelle che abbiamo scelto di raccontarvi tutti i giorni. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalarci via mail o al falcoilgabbiano@radio24.it se conoscete qualche storia che volete che noi si racconti. E a tutti quelli che scrivono chiedendo del podcast vi dico che è facilissimo, perché c'è addirittura un'applicazione che vi consente di avere proprio il Falco e il Gabbiano con voi tutto il giorno, ogni volta che vi pare. E poi, se volete cercarmi, interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social, sui social del Falco e Gabbiano. Insomma, se volete, possiamo essere vicini più di quanto voi possiate pensare. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.